Martedì sera sono le ore 20 e noi Bruxellando siamo nuovamente qui con voi questa sera. E come sapete questa è la seconda puntata di Bruxellando, la seconda insomma di questa nuova, di questa quarta serie. Se sentirete per qualche istante qualche rumore di sottofondo non vi spaventate, è che siamo ancora effettivamente, come dicevamo la settimana scorsa, effettuando prove tecniche di trasmissione, insomma, tra i microfoni, le cuffie, insomma, ci siamo. Io sto cercando di aiutare la nostra Fiordaliso a ritrovare le cuffie. Chissà dov'è Fiordaliso. Fiordaliso, fra poco rientra. Infatti, non c'è il microfono, no, boh, è George che ha fatto uno scherzo a tutti, e per cui i microfoni stasera sono così. George, hai fatto lo scherzetto. Cosa vuol dire? Ci hai messo le mani. Il mio è acceso, però. Ma il mio pure apparentemente c'è una lucina rossa. Ma infatti il tuo funziona, perché ti sento in cuffia, ma io non mi sento. Chi lo sa? Andremo avanti così. Chissà se ci sento gli ascoltatori, gli audio ascoltatori. Io ti sento benissimo in cuffia, anzi. Mi senti in cuffia. No, anche adesso mi sento in cuffia. Sì. Il nostro grande regista ha trovato la manopolina giusta e me l'ha smenata, e infatti comunque adesso sei sento. Sempre te che hai problemi, Giosa, eh? Io non lo so, ma comunque bah, esiste la legge di Murphy, se qualcosa può andare storto ci andrà, e infatti io sono proprio sempre e invece dentro. Da oggi 5 ottobre esiste la legge di George. La legge di George, che qualcosa non va, sì, però dopo si mette a posto. Mi piace questa legge. George è bravissimo, lui riesce veramente a risolvere ogni tipo di vicissitudine tecnica e non. Sì, se avete frigoriferi rotti chiamatemi pure, frigoriferi, microonde, sono specializzato in anche idraulica. Microonde? A tutte. Sì, sì, e beh sì, bisogna trovare il modo di inventarsi dei nuovi lavori, ma non si sa mai domani che cosa ci... Questo è vero. Un uccellino mi ha detto che George è specializzato in riparazione di biciclette, restauro. Sì, come fai a saperlo? George, noi abbiamo buona memoria. Pieno di augelli qua, sto mondo è pieno di augelli. Noi sì, abbiamo in effetti buona memoria. Odo augelli far festa. Odo augelli far festa, si sì, famoso. Beh, sì, mi diverto. Infatti la bici con cui giro adesso è una bici recuperata dalla da Mondizzi, insomma, dal Rosk, come si dice a Bologna, dal Rosk, ho recuperato la bici. Beh, recuperata, aggiustata, con poco, neanche molto sforzo, devo dire, perfettamente funzionante. Quindi uno dice, beh, avevi i pedali rotti, però insomma era un minimo, poteva tranquillamente aggiustare. Per cui, ascoltatori di Radio Alma, se avete un problema con la vostra bicicletta, contattate George. Con modico prezzo. George monetizza subito, non so se ve ne siete resi conto. Insomma, ragazzi, il pane, oppure se arrivate con una gallina, ecco va bene, mi con una cassetta buona di pomodori, un cappone, così va bene, anche uguale, io non voglio mi monetizzare. Mi sembra un ottimo compromesso. La regola del baratto. Devo dirvi che mangiamo organico, quindi. Mangiamo organico. Per cui interiora, cose di questo tipo. Sì, organi interi. Organico, in che senso organico? Bio, scusate. Ah, bio. Beh, questo è un calco dall'inglese, quindi. Certo, ormai tutti quanti usano organico dall'inglese, invece non si chiama organic. Organico. Poi fatto gli inglesi proprio di organico, credo che mangino poca roba, cioè. Io dalla mucca pazza in poi è tutto chimico. Eppure invece un recente studio effettuato nell'ambito della tutela dei consumatori invece rivela che gli inglesi hanno altissima fiducia nelle istituzioni che praticamente sono predisposte al controllo e alla verifica della sicurezza alimentare. Quindi insomma questo è un dato estremamente interessante. Sì, è vero, è vero, è vero. È vero che cercano di mangiare meglio, ma insomma. Beh, dai, la cultura la culinaria in certo senso va appresa. Ma scusate, secondo voi sì, un fish and chips, scusate, organico, come direbbe Imola. Sì. Il gusto è diverso da un fish and chip normale? Secondo me sì. No, secondo me l'olio egualizza. Allora, l'olio di macchina mi c'ho la cuffia che mi sta trapanando le. Chissà se si può. Questo si può. È la cuffia sbagliata. Allora, prima era bassa, poi adesso no, abbiamo cambiato cuffia. Allora abbiamo due cuffie qui, una è perfetto. Oh, lei sente? Fiordaliso sente? Io sento che sono sordo, siamo a posto. No, dicevi, fish and chips organici, incredibile. Allora, fate una prova semplice. Ve la dico perché io l'ho fatta personalmente, io e Fiordaliso abbiamo fatto. Specializzato in biciclette, quindi. E la cosa semplice che abbiamo fatto è questa: abbiamo preso del salmone e abbiamo provato vari tipi di salmone. Allora, il salmone assolutamente più ipergustoso della terra è quello di allevamento, soprattutto allevamento della Norvegia. Ah, buonissimo, cioè, però è di allevamento. Se invece voi prendete del salmone pescato nel Pacifico, scusate, alto. Sì. Nel Pacifico alto, non nel Pacifico basso, perché il Pacifico basso si chiama Cina e non è il caso, perché fa il Pacifico alto, che quindi è pesce, lasciatemelo dire, selvatico, o meglio, non di allevamento. Se prendete salmone rosso non di allevamento, beh, è una cosa completamente diversa. La carne è completamente diversa. Nel senso positivo del termine. È un gusto diverso. Quindi tu lo consigli oppure no? Ma se io dovessi dire a una persona assaggia questi due salmoni, quale preferisci, molto probabilmente mi direbbe quello di allevamento, perché il gusto dell'altro pesce è molto, la carne è molto più dura. Ma perché siamo abituati a questo? Ecco, sapore. Questa era la mia osservazione, era proprio dura, quella, sì. Cioè l'abitudine che ora sì. abbiamo rispetto ai sapori. Io ricordo la prima volta di aver mangiato una mela a Bruxelles, mi sono chiesta se la mela era finta oppure vera. Esatto. Abituata a quelli che erano poi i sapori e gli odori, esatto, della mia terra, esatto, di nascita. Ed è ovvio che con il pesce di allevamento, che è buono, cioè, non ho niente contro il pesce di allevamento, però il gusto viene modificato perché noi, ricordiamocelo, siamo quello che mangiamo. Certo. Quindi andiamo a mangiare i pesci, certi prodotti hanno quel gusto. Ma il pesce naturale, cioè il salmone che vive libero e mangia quello che deve mangiare un salmone, ha quell'altro gusto. Beh, certo. Allora, ovvio, potremmo avere del pollo al gusto di cinghiale, del cinghiale al gusto di, che ne so, di pesce spada, però insomma, queste sono modificazioni che non, secondo me non hanno senso. Bisognerebbe abituarsi a mangiare quello che c'è. Perché fanno l'allevamento? Beh, perché ovvio. Perché di ne parlavamo qualche tempo fa con Fiordaliso, sì. E tra l'altro noi parleremo ancora nuovamente di sostenibilità, perché l'argomento credo sia effettivamente di attuale interesse, penso lo sia un po' per tutti, sia alla fine siamo tutti consumatori, nel sì. bene o nel male, quindi certo. Insomma, ci sono cose di cui effettivamente tutti quanti dovremmo almeno avere una certa consapevolezza. Da là a dire poi che faremo tutti delle scelte razionali, esatte, efficienti. No, insomma, assolutamente irrazionali. Assolutamente no, quindi resteranno sempre, che ne dica l'economia comportamentale, resteranno sempre scelte sicuramente valutate in base ad altri fattori. Tuttavia questa sera noi non parleremo di however this evening non parleremo di cose così serie, anche se quando si parla di scrittura e anche quando si parla di un certo tipo di scrittura che tende a raccontare delle verità attraverso la favola o la fiaba, c'è sempre un fondo di verità che si nasconde dietro quelli che sono poi i personaggi e i protagonisti dei racconti che si leggono. E questa sera siamo tutti molto felici perché riapriamo per il secondo anno consecutivo, e rispetto a quelle che potevano essere le perplessità di qualche tempo fa. Ah, infatti questa cosa mi perplimeva, devo dire che mi perplimeva però. lo spirito bambino di George che è sempre lì pronto a palesarsi. Riapriamo la seconda edizione della Penna del Diplomatico. Olè. Olè. Io colgo nuovamente l'occasione per ringraziare il nostro amico Stefano, dal quale tutto ebbe origine un po' di tempo fa. Colgo anche l'occasione per salutare i consiglieri e gli ambasciatori che già sono stati nostri ospiti l'anno scorso, e questa sera invece apriamo con l'ambasciatore Giuseppe Mistretta, il quale veramente ha scritto un libricino delizioso che si compone di tre racconti. E il titolo già è tutto un romanzo, si potrebbe dire, Nel paese chiamato Alberi. Olè. Olè. Olè. Sì, non voglio anticipare, svelare il contenuto stesso del libro, perché sarà l'ambasciatore stesso a spiegarci come mai il paese si chiama Albero, perché effettivamente il paese è chiamato Alberi, evidentemente ci sarà un significato, così come esprime già tantissima curiosità il protagonista del primo racconto, il dottor Gibao, chimico e farmacista, che era tra l'altro la personalità più illustre del paesino. Ma qualche breve informazione sull'ambasciatore, che ha veramente una lunghissima carriera, pensate, in servizio già giovanissimo dal 1984, è stato in diverse sedi diplomatiche, quindi Roma, la Repubblica Democratica del Congo, gli Stati Uniti, la Libia e la Gran Bretagna. Attualmente invece si trova a distanza a Luanda, quindi in Angola, in questa a quanto pare veramente poliedrica capitale, proprio Luanda. L'ambasciatore è stato ha collaborato con Repubblica, il Corriere della Sera e con Capital, e ha già pubblicato nel 2002 per l'editore Borla un giallo etnico-razziale dal titolo Per conto del nero. E quindi noi siamo effettivamente ben lieti questa sera quindi di ospitare ai nostri microfoni l'ambasciatore Mistretta. Ambasciatore, eccomi, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Buonasera. Appunto, sono sintonizzati. Ambasciatore, buonasera. Veramente è un piacere averla nostra ospite qui questa sera. Tra l'altro ha l'onore di aprire la seconda edizione della Penna del Diplomatico, quindi è il nostro primo ospite per quest'anno di questo filone, che proprio grazie al suo collega Stefano riusciamo insomma a mantenere vivo, e lo stesso speriamo per i nostri ascoltatori. Ambasciatore, io ho già accennato ad alcuni dei suoi scritti precedenti, quindi mi farebbe piacere avere un po' la sua opinione sull'importanza della scrittura e da dove nasce questo suo interesse per la scrittura in generale. Bene, guardi, io faccio parte di questo filone degli ambasciatori che scrivono, poi ci sono il filone degli ambasciatori che suonano, o dei diplomatici che fanno il giardinaggio, o sono esperti di cucina. Tutti coltiviamo una passione un po' nascosta. Quello del filone letterario è sicuramente il più nutrito dei vari gruppi. Non tutti scrivono le stesse cose, cioè non tutti scrivono saggi diplomatici relativi al lavoro che facciamo. Alcuni come me, per esempio, decidono proprio anzi di evitarlo totalmente, questo rischio, perché già scriviamo tanto nel nostro mestiere per lavoro relativamente alle questioni politiche, internazionali, diplomatiche, che se c'è appunto un tentativo di evasione che si può fare è proprio quello di andare a scrivere di tutt'altro. Quindi c'è una, come lei ha citato all'inizio, c'è un nostro collega che si è divertito a fare una collana, insomma a collezionare tutti gli scritti di questi diplomatici, facendo un suo proprio volume che si chiama La Penna del Diplomatico, in cui sono annoverati tutti questi casi letterari di scrittori che fanno gli scrittori a tempo perso, che sono di professione appunto dei diplomatici. Io umilmente, ma costantemente, cerco di annoverarmi fra quelli, diciamo, più che scrivono un pochino di più, perché questa è proprio una mia passione, è proprio un tentativo di evasione. Siccome noi, ripeto, nel nostro mestiere scriviamo molto, forse troppo, poi tutti cerchiamo un'isola tutta nostra dove poter scrivere le cose che ci interessano veramente, che ci fanno un po' sognare oppure che ci fanno sentire meglio. E credo che si spiega un po' così. L'altra spiegazione sarebbe che appunto obbligati dall'ufficialità delle nostre comunicazioni, diciamo, tipiche, si risveglia anche in noi uno spirito un po' rivoluzionario di scrivere quello che ci piace veramente. Ho capito. Poi, quelli che sono i nostri interessi più profondi. Lei tutto sommato però ha cominciato con un giallo a carattere etnico-razziale, tra l'altro vincitore di due premi letterari ad Anguillara Sabazia e ad Arona. E qual è stato quindi il suo cammino di scrittore, se nasce tra virgolette come giallista ed approda poi alla fiaba? Ma io credo che c'è sempre almeno un minima parte di stimolo autobiografico in quello che si scrive, cioè l'ispirazione, almeno a me, viene da un qualcosa che mi è capitato, Ora, naturalmente non vuol dire che si debba scrivere tutta una storia autobiografica, non c'è nulla di autobiografico né nel libro di cui parleremo dopo, cioè quello attuale, né nel libro Per conto del nero. Però insomma sono degli stimoli che capitano nella propria vita e soprattutto nella vita di un diplomatico. Io vi assicuro che di stimoli ne capitano tantissimi, perché si vedono situazioni un po' rapportate ad altre parti del mondo, un po' invece tipicamente italiane, che poi è divertente. Forse noi siamo veramente degli osservatori, e siamo degli osservatori privilegiati, e quindi ti viene lo stimolo un po' anche da quello che ti capita intorno. Il giallo etnico-razziale, che poi dicendo giallo etnico-razziale uno si aspetta una cosa molto pesante, invece il mio proprio codice di condotta è di scrivere cose estremamente leggere, cioè proprio che quasi non toccano terra. E anche questo giallo era molto ironico ed era molto così, molto poco istituzionale, se vogliamo, non so neanche se possa rientrare a pieno titolo nella categoria dei gialli, perché come dicevo, perché ormai questa è una cosa del passato, un giallo senza sesso né morti né feriti forse non ha diritto di annoverarsi nella categoria dei gialli. Effettivamente Per conto del nero non aveva questi tre punti fondamentali, questi tre elementi fondamentali. Era la storia di un cuoco africano che appunto ha vissuto presso una famiglia di diplomatici in Africa la prima parte della sua vita professionale di cuoco, e poi trasportato in America ne combina un po' di tutti i colori, ma ne combina di tutti i colori non accidentalmente, ma perché il fatto che aveva la pelle nera e veniva dall'Africa, in America, in una particolare città come Detroit, che è una città grandissima, stragrande maggioranza nera, poteva significare qualcosa, poteva significare una rivendicazione di diritti prima asseritamente calpestati. E quindi si genera poi una serie di situazioni giallistiche, però non proprio tipiche di un giallo di altro genere, insomma dei gialli predominanti. E vabbè, adesso non voglio rivelare, tra l'altro no. Non si trova più quel libro. Ah, che peccato, questa era sarebbe stata la mia, quindi non è più possibile insomma reperirlo. No, secondo me se uno proprio si impegna si trova anche, la casa editrice era Borla, credo, sì, che sia uscito fuori catalogo. E tra l'altro nulla impedisce poi di farcelo rientrare, molto spesso i libri si riscoprono come i dischi, certo. Quando a un certo punto, al quarto o al quinto disco, al quarto o quinto libro, sia un minimo di successo, allora qualcuno si prende anche la briga di andare a vedere cosa si era scritto, cosa si era suonato prima. Certo. E io spero in questo, perché effettivamente, secondo me, era molto, adesso io non lo dovrei dire naturalmente, perché sono troppo parte in commedia, però era molto carino Per conto del nero, è dato un titolo intraducibile, cioè tante volte ho anche pensato di poterlo tradurre in inglese proprio perché la tematica è molto americana, ma Per conto del nero è una frase che quasi non si può tradurre in lingua inglese, così come la vogliamo rendere in italiano, quindi ha una sua particolarità ulteriore. Infatti, effettivamente, a ben pensarci, se volessimo tradurlo anche in francese sarebbe difficile. Beh, per conto del che provoca problemi. È per conto di sì. Prima di tutto io gradirei venderne di più in italiano. Sì, sicuramente. Particolarmente stimolato dalla casa editrice, perché questa è la cosa importante. Cioè noi siamo, questo l'aveva detto uno scrittore più famoso di me, prima di me, ma non mi ricordo chi. Bene. Noi siamo degli autori, cioè che siano diplomatici o non diplomatici, noi, il nostro mestiere è quello di scrivere, poi il mestiere di pubblicizzare, il mestiere di propagandare, diffondere, non dovrebbe essere il nostro, dovrebbe essere delle case editrici o comunque di altri personaggi. E invece molto spesso quello che per i nuovi autori, perché poi questi diplomatici hanno sempre un pubblico di nicchia, un pubblico molto raccolto, non è che parliamo di centinaia di migliaia di lettori, che comunque in Italia non ci sono comunque per nessuno. Questo è un compito che spetterebbe di più alle case editrici, e io spero che con questa nuova casa editrice che invece pubblica questo mio nuovo libro, che già sto vedendo un grande salto di qualità, Albatros, e spero che possiamo raggiungere più lettori. Ma noi anche l'obiettivo di questa sera, l'intervista di Bruxellando, insomma, nel nostro piccolo cercheremo e promuoveremo anche poi attraverso il nostro blog, sì. Vabbè, un blog che comunque ha visitato il nostro blog, comunque tutto sommato pubblico. Ha un un suo pubblico, insomma, speriamo di essere ovviamente anche un utile strumento per incuriosire i nostri ascoltatori. Ora veniamo a questo libro, il cui titolo è davvero estremamente interessante, perché il paese chiamato Alberi non è un luogo qualsiasi. Vi abita infatti uno straordinario farmacista che, grazie all'audacia dei suoi esperimenti, è in grado di creare pozioni dagli effetti miracolose, tant'è che in poche settimane è riuscito a far crescere alberi che avrebbero richiesto diversi anni per diventare alti e rigogliosi. Questa è una delle sue invenzioni, insomma, poi passeremo alla seconda, quella secondo me più incredibile. Ma da dove nasce la metafora dell'albero? Perché ha scelto proprio l'albero? C'è un significato particolare a livello simbolico, semiotico oppure filosofico? Ma molto spesso le cose sono più semplici, soprattutto quando parliamo di favole, di fiabe, di racconti che sono quasi elementari, anche se, come è scritto anche nell'intestazione, nel paese chiamato Alberi, che è il titolo del libro, è poi seguito da la specificazione, la spiegazione, favole per bambini un po' adulti e adulti un po' bambini, cioè questo lo possono veramente leggere tutti, anche una persona molto adulta e molto seria troverà il modo di spero, divertirsi leggendo questi tre racconti. Nel paese chiamato L'Alberi è uno dei tre racconti, cioè il titolo del libro è anche il titolo del primo di questi racconti. Anche qui si vede un titolo strano, nel paese chiamato Alberi, quasi non solo non è traducibile, ma non sembra neppure italiano, perché Alberi non credo che si possa mai chiamare un paese. Eppure si parte da questo presupposto, perché in realtà il paese chiamato Alberi era un paese senza alberi all'origine, in cui c'era solamente cemento, terra e asfalto, e infatti il paese non si chiamava Alberi ma si chiamava Asfalti. Poi, a seguito di un referendum, dopo che crebbero tanti alberi grazie alle pozioni magiche di un chimico, di un alchimista, il paese fu fatto un referendum, vinse una bambina e lo chiamò Alberi. Così inizia la storia. In realtà poi gli alberi passano di moda, cioè il paese rimane bello, rimane un punto di veramente dove tutti forse vorremmo vivere, un posto pacifico, sereno, tranquillo, ma il personaggio che prende il sopravvento è questo chimico, questo farmacista, il quale inventa pozioni magiche. Dopo aver inventato la pozione che fa crescere gli alberi, vuole inventare qualcosa di più strabiliante. E questo qualcosa di più strabiliante è una pozione per diventare trasparenti tutti, da bambini, da adulti, anche da anziani, vorremmo almeno per un giorno essere trasparenti. Ma non riesce a fare una pozione che rende trasparenti pure gli abiti. E quindi gli abiti in questo paese circolano da soli, senza che si veda dentro l'individuo che è vestito da quegli abiti. Questo che fa diventare il paese un posto alla moda, un posto molto visitato dai turisti, in realtà poi diventa un grande problema, perché la trasparenza può essere una cosa bella, ma può essere anche una cosa brutta, può essere usata anche a finalità negative. E infatti si innesta su questo un giallo che a quel punto potremmo quasi dire diplomatico, perché un paese straniero vuole impossessarsi di questa pozione, poi lì, certo, poi si perde la sorpresa, quindi non possiamo andare oltre questo. Quindi si parte dagli alberi, ma in realtà poi si passa al farmacista, poi si passa alle pozioni magiche, si passa alla trasparenza e alla leggerezza. E alla leggerezza. Secondo me il filone conduttore per cui uno scrive, almeno io scrivo questi racconti favolistici, l'estrema leggerezza, insomma l'evasione dalla pesantezza, ho capito. Secondo me è il filone conduttore. E comunque, visto che abbiamo ancora qualche minuto, il secondo racconto invece reca il titolo Un gatto, due verità e tre inganni. Sì, questo è più una vera e propria storia, cioè mentre il primo e il terzo racconto sono veramente molto onirici, molto immaginari, molto, così come ho detto prima, leggeri, questa è veramente la storia di un gatto che viene perduto e poi recuperato, ma attraverso una serie di peripezie, di inganni e di situazioni del tutto paradossali. Anche qui è un po' una commedia degli equivoci, per questo appunto un gatto, è una vera via crucis, anche molto spiritosa tra l'altro, spiritosa, anche perché non ambientata in Italia, ma ambientata, cioè non ambientata in Italia o comunque in un paese che possiamo ricondurre a qualcosa di simile all'Italia, ma ambientata a Londra, quindi mette in evidenza alcuni tic, alcune manie londinesi o degli inglesi, e quindi si gioca anche su questo piccolo ritratto della società britannica. E anche questo racconto, secondo me, però si caratterizza, come quello precedente, come quello successivo, per il tentativo di mantenere sempre una penna molto leggera. Cioè, adesso non voglio decantare delle mie qualità, che poi sono tutte da scoprire, perché non è che possa piacere a tutti, magari a qualcuno piace un racconto, a un altro non piace, però tutti si caratterizzano da questo tentativo di rimanere estremamente leggeri, soffici, senza troppe pretese, ecco. E l'ultimo invece, Piedi traditi, caratterizzato da un'insolita rivolta delle scarpe. Ecco, questo è quello più costruito, diciamo, quello che mi ha richiesto più fatica a essere messo su carta, perché la fantasia che è nata in me, e ci tengo a dire che queste sono proprio favole che io raccontavo agli amici, nascosto, ma c'è anche nelle scarpe, quindi le scarpe si vogliono finalmente separare, prima di tutto dai piedi, che non vogliono essere più soggette a queste schiavitù di accompagnare i piedi, e in secondo luogo non vogliono più stare la destra con la sinistra, ma vogliono andarsene per conto proprio, e questo suscita una rivoluzione delle scarpe, cioè ad un certo punto dal mondo scompaiono tutte le scarpe. Allora ho provato anche a immaginare cosa sarebbe successo in un mondo senza scarpe, ma senza scarpe vuol dire veramente senza scarpe, cioè che non si trova più nessuno scaffale, in nessun calzaturificio si trova più una scarpa. Ed è un mondo tragico, è un mondo pieno di problemi, forse uno dei massimi problemi dell'umanità, per cui a questo punto l'umanità deve decidere come recuperare le scarpe. Uh-huh. E alla fine quello che si tenta, non dirò adesso se ci si riesce o non ci si riesce, anche se si può immaginare, è che la diplomazia, naturalmente usata qui in un contesto ridanciano, in un contesto appunto caratterizzato da evasione dalla realtà, riesce attraverso un'assemblea speciale delle Nazioni Unite a creare dei meccanismi tali per cui a un certo punto si vedrà se ritornano, almeno si avvia un percorso di recupero di queste scarpe, e la rivolta, insomma, viene compresa nel suo significato, cioè tutti hanno diritto di rivoltarsi. Mi ha aiutato a ricostruire un'ipotetica seduta delle Nazioni Unite con i delegati che parlano, un delegato africano, un delegato asiatico, un delegato degli Stati Uniti, del problema come si riflette nel loro paese l'assenza di scarpe. Ma in tre racconti abbiamo affrontato e ritrovato veramente una varietà di temi, e noi tutti ci complimentiamo effettivamente per la strepitosa e frizzante fantasia. Ma c'è stato un evento in particolare che ha generato, per esempio, l'episodio degli alberi oppure quello delle scarpe? Insomma, qual è stato il momento X cruciale dal quale ha tratto l'ispirazione? Ma io credo di essere una persona che ha tanti difetti, ma che ha la qualità di avere una fantasia forse fin troppo galoppante. Naturalmente poi si cresce e questa fantasia si viene arginata molto spesso nel mestiere che si fa, o nell'ambito familiare, o nelle responsabilità. Però un minimo di fantasia ancora resta. Queste sono storie che sono nate in modo molto semplice, come ho accennato prima. Sono semplici racconti inventati che quando le mie figlie erano piccole, purtroppo adesso hanno, dico purtroppo perché l'età portano responsabilità e anche rotture di scatole, diciamo. Comunque adesso hanno 17 e 15 anni, ma erano piccole come tutti gli altri, come tutti i bambini, hanno avuto eccetera, e allora partendo invece con la fantasia creai queste storie. Poi sono passati tanti anni, perché da quando queste storie venivano raccontate come storie per andare a dormire, a quando sono state scritte, cioè non più di un anno e mezzo fa, ho cominciato a scriverle forse 2 anni e mezzo fa e finito 1 anno e mezzo fa, è passato tanto tempo. E l'ispirazione è stata una figlia che mi ha detto: papà, ma se tu vuoi scrivere un altro libro e non sai esattamente dove andare a cercare l'ispirazione, perché non metti per iscritto quello che tu avevi fatto, quello che tu ci avevi raccontato quando eravamo piccole? Perché erano delle storie molto divertenti, naturalmente molto più di 3, ne avrei potute fare una quindicina, una ventina, però queste erano quelle che mi sembravano più significative, naturalmente però anche elaborate in maniera scritta, insomma, immagino, sicuramente, come si raccontano. E ripeto, poi è chiaro che le favole hanno sempre un aspetto fanciullesco, però proprio per questo anche possono essere lette da adulti, perché ci sono tanti paradossi che accompagnano la nostra realtà di uomini adulti o di donne adulte, e che possono essere divertenti anche a una certa età. No, assolutamente, poi lo dicevamo aprendo la trasmissione, argomenti più importanti, insomma, descrivere la seduta delle Nazioni Unite, per esempio, in maniera così deliziosa come lei ha fatto, prendendo spunto, insomma, dalla sua esperienza personale, credo possa comunque risultare istruttivo per gli adulti che non tutti, insomma, hanno la possibilità di poter assistere a queste circostanze, invece poi per un bambino che ha una fantasia sicuramente più galoppante, più vivace, insomma, di entrare già in sintonia con altre dinamiche a lui in quel momento un po' distanti. E c'è un momento invece in particolare che ricorda con piacere, che si è verificato durante la stesura di uno dei tre racconti. Guardi, in realtà io penso che scrivere è un grandissimo sacrificio, è una piccola condanna, nel senso che chi vuole scrivere e chi ha questa aspirazione, questa ambizione, sa anche quanto è difficile poi mettere su una pagina una scena. E io dico sempre, il pittore, soprattutto se un mestierante, riesce a rendere con poche pennellate l'idea di quello che vuol fare, se è una natura morta, se è un paesaggio. Il fotografo con uno scatto, sebbene studiato, riesce a darci subito la visione del panorama che voleva, del panorama, del ritratto che voleva fare, però se una stessa cosa deve essere scritta è molto ma molto più faticoso, anche se si tratta solo di storielle. Quindi io credo che tutti coloro che scrivano, a meno che veramente non facciano un libro umoristico in cui si mettono a ridere mentre scrivono, però io penso che veramente scrivere è una cosa faticosissima, soprattutto perché scrivere, come sempre ha detto qualcuno di più famoso di me, è l'arte di cancellare, è l'arte di correggere, è l'arte di alleggerire. Quindi non solo scrivere, ma poi anche togliere tutto quello che certo. È ridondante, ripetizioni, pesantezze, stile brutto da leggere, da digerire. Cioè quindi io credo che sì, è bello vedere il risultato finale, secondo me, quando uno, talora io credo che poi le storie prendono proprio il sopravvento e hanno una vita propria e l'autore stesso si sorprende di essere stato capace di scriverle. Io quando rilessi Per conto del nero, che è tutta una trama molto giallistica, come ho detto prima, molto piena di avvenimenti strani e di situazioni eccezionali, secondo me ben descritte, mi chiesi, ma come ho fatto io a scrivere questa cosa? E analogamente adesso, vedendo l'opera compiuta di queste favole, mi dico, ma ero proprio io che ho scritto questa cosa, perché poi il libro vive di una vita sua, il racconto vive di una vita sua, e ti prende la mano, e non è neanche detto che tu lo volevi scrivere proprio così, magari certo. Lo volevi scrivere un po' diverso. E quindi c'è la soddisfazione del momento finale quando lo vedi. Io credo che tutti esultano, gli scrittori, quando vedono la prima copia del libro stampato. Beh, immagino. Siccome io sono uno scrittore giovane, cioè ho fatto solo due libri, ho scritto magari qualche articolo per qualche quotidiano, però sostanzialmente come scrittore sono veramente poco noto, sono alle prime armi e imparo ogni giorno anch'io. La grande soddisfazione che ti dà la prima copia del libro strampato ancora caldo è veramente unica. Ecco, questo è il momento più solenne. Ho capito. Sì, mi fa venire in mente quando parlava dell'arte di cancellare Giuseppe Berto nel libro Il male oscuro. Che per tutto. Senz'altro, sì. Penso che veramente quello il segreto, cioè sì. Avere il coraggio di reggersi e considerare e di renderle digeribili, assaporabili, insomma, a tutto il pubblico. E questo è il lavoro di, adesso ripeto, non sta parlando Manzoni, sta parlando un novizio, però comunque che ci tiene molto a presentare un prodotto molto ben leggibile. E io credo che veramente bisogna avere il coraggio di ridurre ripetutamente, leggendo anche 50 volte la propria opera, perché si guadagna senz'altro in leggerezza. Questo poi è un dono effettivamente che credo appartenga a pochi, insomma, perché la leggerezza penso sia poi quell'elemento che riesce a caratterizzare un buon libro da un altro, perché poi in tanti cercano di scrivere e negli ultimi tempi insomma di esercizi di scrittura ne abbiamo visti tanti, però poi ci sono delle qualità che a nostro avviso in maniera veramente semplicissima appartengono a pochi. Ambasciatore, noi siamo stati veramente lieti di ascoltarla questa sera, e prima di salutarci ha un saluto, un messaggio, insomma salutare qualcuno insomma dai nostri microfoni, dai microfoni di Bruxellandia. Io vorrei complimentare prima di tutto l'iniziativa della vostra radio, perché ho letto, anche informandomi prima, di questa radio italiana a Bruxelles, e veramente sono opere che aggregano tutti i nostri connazionali all'estero. Io appunto sono scrittore per diletto, ma sono ambasciatore per professione, diplomatico per professione, e io sono ambasciatore in Angola, un paese africano sicuramente fra i più emergenti, anzi io direi dopo il Sudafrica è un paese più importante dell'Africa in questo momento, dove abbiamo tantissimi interessi economici, ma quello che ci manca, e che ci mancherà sempre perché la comunità italiana non è così ricca, è una radio nostra, una radio italiana, per aggregarci, per sentire le notizie, per sentire la musica, e poi voi avete in particolare questa rubrica letteraria, quindi veramente vi faccio tantissimi auguri e tantissimi complimenti, e parallelamente alla nostra comunità di ascoltatori italiani, mi immagino che per lo più sono ascoltatori italiani, anche se magari ci sarà anche qualche curioso belga che parla l'italiano. No, abbiamo anche sia francofoni che neerlandofoni che ci ascoltano con piacere, amanti della lingua italiana, e che approfittano di queste ore dedicate quindi alla lingua italiana, perché poi abbiamo 5 trasmissioni dal lunedì al venerdì per rinfrescare anche le loro conoscenze linguistiche, quindi è uno strumento che ci fa piacere insomma confermare dell'interesse di non italiani nel nostro programma, e di tanto in tanto abbiamo anche ospiti francofoni insomma che vengono qui in studio a raccontarci delle loro opere, quindi insomma. Ma mi pare un'iniziativa fantastica, di cui sicuramente gli italiani che vivono con Sti saranno molto contenti, anche gli stranieri che sono. Allora, noi... La lingua è veramente molto amata, il bello è che è amata proprio perché ha un suono particolare, o perché può essere ricollegata alla nostra arte, certamente non perché ci si lavora o perché si ottiene qualche merito in più nel mondo del lavoro o nel mondo della comunicazione, quindi tutto quello che voi fate a difesa della nostra lingua, della nostra cultura, delle nostre abitudini, sono tutte operazioni che sono veramente encomiabili, quindi spero, auspico veramente tantissimo successo ancora per la vostra radio, e spero che un giorno nel mio prossimo paese dove farò servizio ci sia un'altra radio italiana su cui potersi sintonizzare. E noi glielo auguriamo, quindi ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, nel paese chiamato Alberi, edito da Albatros, l'ambasciatore Giuseppe Mistretta. E io ne approfitto anche perché, visto che l'ambasciatore parlava dall'italiano, in questa trasmissione, forse non lo sa, ma c'è una ragazza ungherese che parla in italiano, quindi nella nostra piccola radio abbiamo un ungherese che ha studiato italiano e che parla in italiano, e allora glielo chiedo. Vabbè, tanti complimenti anche a lei. Glielo chiediamo perché, ne approfitto perché non l'abbiamo mai chiesto perché ha imparato l'italiano. Chissà se gli abbiamo chiesto, non ricordo. Ivola, perché l'hai imparato l'italiano? Era piuttosto fortuna, diciamo, era il fato, se possiamo dirlo, ma io ero comunque affascinata di poter imparare qualcosa, perché l'ho fatto in liceo l'italiano come primo passo, che potevo imparare qualcosa che era abbastanza unico in città, perché era l'unica scuola in cui si studiava l'italiano, quindi sì, il suono della lingua, ma prima di conoscere il suono della lingua io ho conosciuto piuttosto questo fascino dello sconosciuto. E dopo, man mano, è diventato sempre più bello. Voilà. Ambasciatore, per sua informazione, Imola è praticamente cura il Librangolo, quindi la rubrica proprio dedicata ai suggerimenti letterari. Bene, tanti complimenti. Quindi insomma la ringraziamo ancora. Perché stasera sento malissimo. Diceva? No, io spero che sia possibile per questi ascoltatori che hanno sentito le nostre conversazioni reperire in qualche libreria italiana a Bruxelles questo libro, che comunque nel catalogo dell'Albatros, che è la casa editrice che lo pubblica, e quindi se non altro per internet si può sicuramente ottenere molto facilmente. È nel catalogo ufficiale ed è uno anzi dei libri più promossi dall'Albatros, e io sono grato anche alla casa editrice per questo appoggio che dà a questo libro in uscita. Sì, tra l'altro poi avremo modo di parlare magari anche via email per poterla aiutare a promuovere il suo libro anche qui in libreria, però magari ne riparliamo insomma in sede privata. Noi la ringraziamo ancora, tra l'altro è arrivato il nostro direttore che saluto e mi corregge, mi dice che i programmi in lingua italiana sono 8, quindi mi scuso insomma da quest'anno sono 8, quindi insomma la famiglia aumenta. Grazie. Ambasciatore, grazie, buona serata e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori che ci seguono. Buona grazie. Serata. Grazie ancora, salve. Yeah. 1, 2, 3. Grazie. Dobbiamo sfumare questo, cioè è proprio la sigla più lunga della storia di Librangolo. Comunque ve lo dico, Librangolo, di quello che si tratta, ecco. Librangolo. Perfetto. Stasera noi staremo un po' fra la leggerezza e fra la pesantezza e faremo un piccolo viaggio dentro l'Unione Sovietica, ma lo faremo attraverso due gialli di un americano di nome Tom Rob Smith. Dunque, ricapitoliamo, facciamo un viaggio in Russia, anzi scusate, nell'Unione Sovietica. Sì. Pre-muro di Berlino. Sì, pre. Scritto da un americano. Sì, lo so. Si vede che cioè gli americani a volte si muovono un po' più velocemente degli autoctoni nel trovare il modo in cui presentare un luogo con le sue difficoltà, inventandoci delle storie. Ma fondamentalmente in questo caso si tratta della storia, i due libri di cui sto parlando hanno come protagonista la stessa persona, cioè Leo Domidov, che è un cechista. Io non so se sapete che cos'era un cechista. Il cechista era praticamente un agente dei servizi segreti, diciamo, che dopo praticamente preesisteva anche alla KGB, diciamo, che raccoglievano le denunciazioni da parte dei cittadini e andavano in giro ad arrestarli praticamente. A volte si infiltravano pure dentro organizzazioni o comunità per poter meglio arrestare i nemici della patria. La talpa, quella che si chiama talpa. È un po' più di una talpa, cioè c'erano anche dei cechisti che si occupavano degli interrogatori, quindi facevano anche il lavoro molto sporco di cechista, tortura. Non lo so. Se c'è che da controllo. Non lo so. Comunque, questo Leo Domidov all'inizio di queste storie, all'inizio del primo libro, è ancora un cechista convinto. E questo libro si intitola Il bambino 44. E in questo caso lui mi ricorda qualcosa. Che cosa ti ricorda? Il bambino 44. Che cosa ti ricorda? Un film tedesco molto famoso di qualche tempo fa. Che si chiama? C'era qualcuno che ascoltava qualcun altro. Ah, il Das Leben der Anderen, la vita das degli Leben altri. Der Anderen. Un po' sì, un po' no. Cioè, Leo sta vivendo con la sua bellissima moglie. All'inizio della storia è assolutamente ignaro del fatto che la sua bellissima moglie l'ha sposato per paura e lo odia a morte. Comunque, ed è un cechista convinto all'inizio della storia. E a un certo punto si imbatte nel corpo di un bambino ammazzato in modo quasi rituale e poi scopre che negli annali, diciamo, nei documenti che seguono a questa morte, praticamente i fatti strani spariscono dalla storia, viene arrestato qualcuno che non, cioè molto probabilmente non c'entra niente, c'è una soluzione facile, e dopo scopre anche che c'erano delle morti simili altrove che possono essere connessi. Però siccome nella Soviet Unione, nell'Unione Sovietica, cioè nel mondo comunista ideale, non poteva esistere il crimine, generalmente si trovava un capro espiatorio che era un elemento di disordine dentro la società, o che si poteva in qualche modo nominare traditore, o che era un po' pazzo, non so, cioè comunque qualcuno che si poteva mettere al di fuori, che era o era già al di fuori della società, diciamo, sana, ideale, sovietica, e generalmente lo sceglievano tipo come colpevole e lasciavano impuniti riveri autori, semplicemente perché non li stavano cercando seriamente. Leo, stranamente questo caso in Leo avvia dei cambiamenti che proprio lo porteranno alla fine un po' via anche dal suo lavoro, che lo porteranno verso il ritrovo dell'amore con sua moglie, perché lui stesso comincia a cambiare. Lo spostano in un posto, cioè, proprio rurale, dietro, cioè proprio perso dentro il nulla, e là sempre di più si avvicina alla verità, che scoprirà poi chi era l'autore degli efferati 44 delitti. Quindi insomma un serial killer. Un serial killer, infatti. Cioè, ovviamente le ricerche di Leo sono molto difficili dato il contesto sovietico. Cioè, lui praticamente si deve quasi ribellare contro il sistema o agire di nascosto, sfuggire, eccetera, per riuscire ad arrivare alla verità. Però arrivandoci riesce anche un po' a rimediarsi anche negli occhi del sistema. Infatti è di qua che il secondo libro comincia, perché Leo decide di rimanere nell'Unione Sovietica insieme alla moglie. Bellissimo, hai sentito stasera? Che cosa? Fiodalisa è un bellissimo sovietico. fa molto di madre Russia, e stiamo parlando di grande madre Russia. È grande madre Russia, esattamente. Cioè, siccome questo Leo decide comunque di rimanere nell'Unione Sovietica, perché questa è la sua patria, il libro secondo comincia con lui essendo parte di un'unità di controcrimine che hanno messo su in conseguenza del suo successo con questo caso di prima. Aspetta un secondo, però. Cioè sì, negazione, eccetera, eccetera, però scoprendo, cioè comunque lui con questo caso riesce a dimostrare qualcosa, e dato che riesce a dimostrare qualcosa, e dato che nel frattempo Stalin muore, il che è molto importante elemento, comunque si decide, proviamo, mettiamo su questa cellula, mini cellula di criminologi che agiscono di nascosto, sono praticamente parte dei servizi segreti, però almeno stanno facendo un lavoro di criminalistica seria. E lui sta in questa unità e si sente anche molto contento, in più con sua moglie adottano degli bambini, e lui si sente che magari ha una seconda possibilità, dato che non dimentichiamo che ha fatto delle cose terribili nel suo passato. E quindi, però, in questo libro è esattamente il suo passato che lo insegue, perché un personaggio a cui lui nel passato ha causato dei problemi, li ha fatto arrivare praticamente in uno dei ghetti della Siberia, torna e praticamente frantuma la sua vita apparentemente ideale a pezzi. Cioè, così scopriamo, lui come personaggio è fra il positivo e il negativo, diciamo, ha fatto delle cose per cui giustamente c'è della gente che lo odia proprio. E questo include anche i suoi bambini adottivi, perché fondamentalmente lui adotta due bambini di uno che è morto di conseguenza alle sue attività. Quindi c'è una sua figlia che praticamente quasi ogni notte viene con un coltello fino al suo letto e pensa: lo uccido o non lo uccido? Lo uccido o non lo uccido? Poi, per via della sorella minore, decido di non farlo, però comunque c'è questo odio, no? C'è questa tensione. Ecco, questa tensione. E quindi io ti posso fare una domanda? Ma fammi una domanda. Come fai a selezionare i titoli dei libri che pensi ti possano interessare? Qual è l'elemento? Io lo so. Non fare come i bambini secchioni a scuola che alzano la mano. Alza la mano. Io lo so. Dai, rispondi. Io rispondo se tu sbagli. Tu rispondi se io sbaglio. Come seleziono? Cioè, Dai, una curiosità. Siamo fermi ai talenti, ma siamo fermi alla figlia che sta per sì, domani. Sì. E facciamo una digressione. Io ragazzi, è una mia teoria. Dopo. Ecco, comunque, questo concludiamo. Cioè, però oltre a questa storia, cioè noi stiamo anche, anche visitando dei momenti molto importanti della storia o anche della realtà dell'Unione Sovietica. Per esempio, stiamo visitando, lui deve andare per esempio in questo Gulag, sì. In questo gulag nella Siberia, per recuperare una persona, perché è ricattato praticamente con questo, vabbè, non voglio raccontarvi tutto. E allora attraverso questo suo viaggio, cioè lui viene confrontato al fatto di dove aveva mandato un sacco di persone, dall'altro lato anche noi stiamo conoscendo quanto dura era questa realtà tenuta nascosta così a lungo dentro l'Unione Sovietica. Cioè praticamente uno deve realizzare, pochi realizzano, che dentro l'Unione Sovietica si trattavano la gente più o meno nello stesso modo o anche di peggio che durante il nazismo. Quindi è un crimine, cioè durante l'esistenza dell'Unione Sovietica si commettevano dei crimini contro la indipendenza, la libertà, cioè proprio contro l'indole umana, diciamo, che erano molto seri ed erano anche molto prolungati, perché si andava per decenni e decenni e decenni. E quindi noi veniamo confrontati proprio con questa tradizione di violenza, questa tradizione di repressione, che il libro rende abbastanza bene, devo dire. E quindi, anche se è un giallo fondamentalmente, e ha anche delle esagerazioni da giallo a volte, comunque è molto apprezzabile nel modo in cui fa incontrare al lettore in questo modo queste realtà e questi fatti. Va bene, si fa anche un po' di viaggetto a Budapest, per esempio, durante 56, nell'arco di questo secondo volume che si chiama Kolyma. E adesso posso rispondere anche alla vostra domanda. Che cosa hai 10 secondi? La risposta secondi? È non si sa, perché non abbiamo più tempo. Il tempo è tirannosauro. Va bene, ve lo lascio per un'altra volta, ve lo spiego. No, prego, dicela. Allora, cari amiche e cari amici, ringrazio Dani M in regia, lo straordinario George Fiordaliso. Vi lasciamo tra l'altro con una nuovissima emissione che prende proprio l'avvio questa sera, e salutiamo ancora il nostro direttore che è venuto Mitico proprio nei nostri studi questa sera. Vi auguriamo un'ottima settimana e ci ritroviamo martedì prossimo. Saluti a tutti da Mari D. Se Dio vuole. Sempre. Lando.